Bentornati in questi lidi. A questo giro però abbiamo una novità, ho un canale di YouTube. Arrivarci è facile, vedete sopra la mia playlist speaker, a fianco c'è il mio nome, Dottor Pirates. Ci cliccate e vi ritrovate nella mansarda del Dottor Pirates. Per cui a questo punto vi chiedo una cosa, se vi piace quello che sto facendo, la cosa migliore che potete fare è iscrivervi al mio canale di YouTube, darmi like se vi piacciono i video e anche iniziare le discussioni, perché no? Sì, lo so, è un po' da paraculo chiedere una cosa del genere, però lo apprezzerei veramente veramente tanto. Poi la mansarda del Dottor Pirates è un luogo un po' fuori dal tempo e anche dallo spazio, e secondo me potreste trovare delle cose interessanti, per cui spero di ritrovarvi lì, ci conto. Gli Irrinunciabili presenta Una vita al massimo, un film di Tony Scott, con la sceneggiatura di Quentin Tarantino. Ben arrivati nella mansarda del Dottor Pirates, un luogo fuori dal tempo e forse anche dallo spazio, che vi propone Una vita al massimo. Sì, Una vita al massimo, perché è un film che non tutti conoscono, ma è una vera perla. È stata la prima sceneggiatura scritta da Tarantino quando ancora lavorava in una videoteca. Il personaggio principale, Clarence, è un commesso sfigato che va a vedere una rassegna su Sonny Chiba al cinema in piena notte. Chiaramente, idealmente, è lo stesso Quentin, e per la cronaca Sonny Chiba interpreterà poi Hanzo in Kill Bill. La cosa fica è che il film è diretto da Tony Scott, che è anni luce distante da Tarantino. Per cui parliamo di Top Gun, Giorni di Tuono, due mondi opposti. Tarantino alla sceneggiatura e Tony Scott alla regia. Escerà però un film fighissimo, molto pulp, ma anche dal ritmo sostenuto. Per farla breve, Clarence è un commesso sfigato e incontra al cinema una ragazza, Alabama, con le fattezze di Patricia Arquette. Lei rappresenta tutto quello che ha sempre sognato e vorrebbe vedere quando incontri una ragazza ad una rassegna su Sonny Chiba, tuo idolo, dove proiettano Il Teppista, Il Ritorno del Teppista, La Sorella del Teppista. La possibilità di aver incontrato il vero amore sono altissime, anzi, è praticamente certo, hai incontrato il vero amore. Per cui fanno la cosa più logica da fare, passare la notte insieme. Clarence però scopre che Alabama è una prostituta. Innamoratissimo, la vuole portare via dalla sua squallida esistenza. E si troveranno in un casino pazzesco fatto da papponi giamaicani, mafiosi siciliani, Chili di Bamba e Val Kilmer. Sì, perché c'è anche Val Kilmer, ma non lo vedete. Interpreta un immaginario Elvis, che è presente solo nella testa di Clarence, e gli dà dei consigli. Questo vi dovrebbe dare la dimensione del film. Il cast è stellare, Christian Slater e Patricia Arquette sono tenerissimi e completamente fuori dal mondo, in una delle coppie più stralunate che si siano mai viste al cinema. Slater, per prepararsi alla parte, ha visto più volte Taxi Driver, sotto ordine di Tony Scott. Gary Oldman, invece, è un pappone giamaicano, con l'occhio di vetro, i dreadlock e il viso sfregiato, e direi che come credenziali bastano. Val Kilmer e Elvis. Christopher Walken è un mafioso siciliano e potrei continuare con Dennis Hopper, James Gandolfini, Brad Pitt, Samuel Jackson, Tom Sizemore, eccetera, eccetera, eccetera. Ci troviamo di fronte ad una perla dimenticata, anzi, che forse non è mai stata realmente scoperta dal grande pubblico. Abbiamo tutti i dialoghi di Tarantino, epico quello sull'origine dei siciliani, e per molto tempo Quentin lo considererà come il migliore mai scritto. Abbiamo dunque tutte le sue situazioni particolari, da strada, molto ruvide, ma adattate in un contesto alla Tony Scott. Ed è qua che avviene la magia. L'impossibile si realizza con due mondi completamente differenti che si uniscono. Clarence e Alabama si amano alla follia, come due ragazzini, sempre a prescindere da tutti i casini che gli accadono intorno. Il tutto con un ritmo incalzante. A ben vedere, è una favola alla fine questo film, intrisa di violenza, sparatorie, cocaina, ma pur sempre una favola. Penso sia veramente speciale, è un crimine non averlo mai visto. Guardate, dovrei avervi già convinto a visionarlo. Una cosa del genere oggi Infatti in questo modo, con questo cast, è impossibile per diversi motivi. Vuoi perché certi attori non erano al loro apice, vuoi perché vedere fondersi perfettamente insieme il cinema di Quentin e quello di Tony è una cosa che ha del sovrannaturale. Andate a vederlo. Buona visione.